sarà colpa del whisky, non sarà colpa del caffè. Ma non mi ricordo più di te. Sarà che questa sera fa un freddo micidiale. Sarà che non ho neanche voglia di parlare. Ma non andate adesso, non andate, rimani lì. Facciamo due chiacchiere. Dimmi almeno come ti chiami. Ma dai, scherzavo, dai, ma cosa ti salta in mente? Ricordo il tuo nome perfettamente. Ce l'ho stampato in testa fin da quando t'ho venuto. L'amavo già da prima, prima ancora di averti conosciuto. Mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu. Come te lo devo dire? Mi piaci tu. Come sei e anche quella che vuoi sembrare. Mi piace perché non ce la fai e allora ti lascio andare. Mi piace quando fai l'amore e lui ti sente respirare. Mi piace quando riapri gli occhi e dici di vedere il mare. Mi piaci tu.